questa specie di, vedi, tituba, tituba la partenza, vedi? Tituba. Sai perché? Sai perché tituba? Secondo me hanno capito tutti perché tituba, vedi? C'è anche del telefono, quindi? Perché c'è tutta una tensione nell'aria, c'è questa elettricità, no? Sono tutti non lì che aspettano, trago, sono tutti lì che aspettano che arrivi aspettano. Finalmente il venerdì. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K. Un saluto da Drago. Questa è la voce del venerdì, non ho capito. Sì, un saluto. Dico venerdì, basta così. Dai. Basta così. Niente basta, musica da club, niente quella roba lì. Ah, la vuoi? Insisti. Beh, no, è il nostro pubblico scusa, ormai che la vuole e l'aspetta. Ah, non è vero, secondo me a questo punto ti sei abituato anche tu. È pubblico, è il pubblico che decide. Tutti quanti. Perché ormai siamo, capito, alla fasia. Aspetta, si chiama la glossolalia. Si chiama venerdì. Comunque questo è il momento più atteso della settimana negli studi di notai, avvocati, dentisti, sì, il pubblico di Radio 24. Aspettano il venerdì a pomeriggio per sentire questa musica che si insinua nelle loro menti. Prima doveva essere una mia idea, adesso sei tu che sei preso, sembri un demente, ragazzi, di 17 anni strappato, non riesco, di MDMA. Non ce la faccio. Non riesco ad appassionarmi al venerdì. Al? Venerdì. Ma non sai perché? Perché sei ignorante. Cosa c'entra ignorante? C'entra. Le ultime notizie dalla scienza sono sconvolgenti perché si viene a sapere che i bambini, se le dici tu poi allora, dico io, i bambini, cavolo, cosa? A sei mesi già cominciano a capire i discorsi degli adulti, quindi finora si è sempre pensato che capiscano le parole, i discorsi, il significato delle parole, tutto quanto. Vabbè, ma quindi tanto quei bambini piccoli nella culla parli di me, sei piccolino, quindi non capiscono, però quando poi quando gli dici piccolino non capiscono. È certo, perché loro si aspettano. Vabbè, comunque guarda, non è una gran notizia, vuol dire anche i cani, Cosa? Anche i cani capiscono le parole, cioè Tito, vieni qua. Tito. No. Cioè Tito, attenzione. Se tu dici certe tipo non devi stare zitto, dici che è stato così comprato, perché lui crede che tu sei il papà, se invece lui capisce. Però se parli un po' sei stato comprato. Lui così pensa che sia una cosa affettuosa da mangiare, tipo. Okay. E siete comprati perché è più sensibile all'intonazione. Se invece così tu gli dici ti voglio tanto bene nel tono di ti voglio tanto bene. No, lui non capisce, lui pensa che è stato comprato. Ma no, Tito, non ti ho comprato, dai, ti ho partorito io. Ma non dirgli nemmeno quello. Sì, come si chiamano quelle cose delle amebe? L'autogemmazione, quella roba lì, sì, che funziona con i bassotti geure quando li bagni con l'acqua. Attenzione, non bagnateli con l'acqua. Poi soprattutto non metteteli alla luce. E terza cosa, non dategli mai da mangiare dopo mezzanotte. Drago, non è mica una roba che mi invento io. Steven Spielberg ha fatto un film su sta roba. Sì, vabbè, dai. Come, richiamo vabbè della foresta. Richiamo della foresta. L'invasione dei bassotti Geureghe. No, l'ultimo anzi, film. Il titolo? Vabbè, il titolo originale è Steven Spielberg presents Burr. Directed by Steven Spielberg. E ora, bambini, ricreazione! Ciao, Joris! Ciao, Albe! Uè, senti un po', è una settimana che sto pensando una cosa, no? Ho visto che ultimamente c'è un fenomeno di bambini neomelodici. Sono dei bambini napoletani, tutti napoletani, piccoli, che cantano le canzoni... cantano le canzoni... E qui fanno concerti, le serate, i matrimoni, i funerali... Alle cresime, alle comunioni. Questi qui li prendo e dico: mi fai mandare il tuo bambino a cantare? E questi parlano. Io l'ho visto, vabbè. Al matrimonio di mio zio l'ho visto. Ecco, allora io sapevo che Iore, stavolta facciamo il botto. Allora, tu hai visto questi qui? Quello che c'era a cantare è stato pagato, no? No, questo non lo so. Mi ricordo che era un bambino piccolissimo, ha fatto un'ora di concerto, tutti fanno dietro a lui. Ecco, lo sapevano qui tutti, oh. E allora, questo lo sapevano più a lui che alla sposa. Appunto, questo qui è stato pagato, no? Qui, tu sei un bambino, no? sai cantare, che so che hai una bella voce, l'ho sentito, mi dai fastidio perché è una cosa mia di indole. Io però hai una bella voce, devo ammetterlo. Hai anche, cioè, non è, e pensare magari di lanciarti come bambino neomelodico? Bambino dell'asilo, neomelodico, saresti il primo, saresti il fenomeno numero uno lì, rischi di andare anche da Pippo Baudo, no? Un modo. Cioè, è il fenomeno. Da chi? Da Pippo Baudo. Vado, ma quello è vecchio, mo, però. Sì, ma fa vedere i fenomeni, no? Allora, tu capito? Sì, che ho capito. Allora, solo che io mi ricordo che quello c'aveva le canzoni tutte sue. E allora? Quando gli hanno chiesto al bambino, senti, mi canti una canzone di Pino Daniele, di Totò? No, no, no, io canto solo le mie canzoni. E che ci canta? E qui ti volevo. Qui ci manca, allora, tu ci sei? Sei il cantante? C'è l'immagine? Io sono il manager, cioè la mente dietro. Cioè, ci manca solo che cosa? La canzone. E chi è che la scrive, la canzone? Il manager? No, il cantante. E tu devi scrivere la canzone. Ma non è. Non è che sono delle canzoni complicate, no? Scusa. Allora, adesso ti faccio sentire una che ho sentito, la conoscerai già, eh? Questo è il piccolo Lucio. Un bambino, eh? Un bambino un po' sovrappeso, no? Simpaticissimo. Ma tu senti questa canzone? Senti come canta, ispirati un po', senti anche i testi, no? Poi tu li cambi. Ah. Va bene, a sentire te. Fammi sentire. Senti. Fammi sentire, Albert. Tutte le ore sembra stessa storia, mamma. Non va a mangiare. Insalatina non mi piace. Meglio non piace mancare. Le carotine e gli spinaci. La donna ci fa. Se la mamma c'è nulla. Ecco, però noi dovremmo cambiare il testo e farlo un po' più, come dire, commovente, no? Da credevole, da piangere, no? Ah, tristi, no? Perché ho visto che quello va forte, no? Cioè, adesso qua, seduta stante, improvvisa una. A parte, il testo non importa, anche se dici parole senza senso, va bene. Sì, sì. Giù una di getto, come però che fa, se riesci, triste, che faccia piangere. Dai, butta sì, giù, sì, dai, sì, ce l'ho. Senza vergogna, vai. Senza te non posso stare perché tu mi appartieni. Perché mi manco tu sì. Senza te non posso stare, ti voglio troppo bene. Così. Mo venga, dove stai tu? Così, così, Ioris. Sì, c'è bene. Sì, uova, Ioris. Allora qui, c'è un fenomeno, Ioris. Se renditi conto cosa hai fatto. In 2 secondi hai buttato giù una canzone, melodia, testo. E tutto, è tutto fila. Con l'inizio, la fine. Qui siamo. Qui è una cosa che abbiamo. Qui facciamo il botto. Che abbiamo bisogno anche di un tutore. Perché qui cominciamo a guadagnare soldi a palate. Il problema è anche. Cioè, dobbiamo tirare dentro pure a mio fratello, no, Albe? Allora, ancora tuo fratello? Quello lui me li fa ascoltare quei dischi, eh. A parte che, ma qui, ragazzi, non stiamo qua a fermare, queste sono quisquiglie. Davanti a una cosa del genere, e butta dentro anche tuo fratello. Sì, sì, quello suona il piano bale, suona le tastiere, wow. Allora. Bravissimo. Allora, bene, vedi che allora, più siamo, se ognuno mette il suo, e non sono passivi come il tuo fratello di 39 anni, lui non è, quello lì prende i soldi e poi non fa niente. Questo qui ci suona le tastiere, ma avanti un altro fratello, lì il fenomeno. No, no, il fratello è quello. Al massimo ti posso portare una sorella corista che canta benissimo. Qui allora, qui, come l'affare c'è? Bisogna fare un contratto, a vedere a volumi di affari. Fate gli Ioris 3, come i Jackson 5. E lì, allora il fenomeno diventa, si triplica. Allora il grano ce l'è. Io sono il manager e organizzo. Va bene, va benissimo, Ioris. Va benissimo, io sono allora, pronto a scrivere una canzone. Fammi sentire un'altra. Ci butta giù, però se ci riesce, se... Ce l'hai, se ce l'hai? Sì, sì. Senza te non posso stare perché tu mi appartieni. Perché mi manco tu. Ma somiglia quella. Senza te non posso stare, ti voglio troppo bene. Bisogna cambiare. Ma venga, dove stai tu? No, non è che somiglia, è la stessa. È quella di prima. Non ce l'hai, fai un'altra, no? Io che sto so, Albert. Venerdì, ringraziamenti a... Un ringraziamento a tutti gli uomini del Venerdì. Yeah. Allora, Alberto Caserini, Guido Bertolotti. Grazie. Chiara Minieri, Salvatore Iorio. Sì, vabbè, ma insomma non può ma ricordo tutti, ma in discoteca se fai così la gente ti tira i bicchieri di Laura Fagin. Miriam Lucchetti, guarda chi vado a ricordarmi. Pietro Lacorte, mettiamoci anche lui. Perché? Perché magari poi c'è lui, capito? La settimana è lunga, chi lo sa. Comunque la settimana sarà anche lunga, ma oggi è finita, perché oggi, ragazzi...